Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio e buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. È iniziata ieri e prosegue oggi nell'aula di Montecitorio la discussione generale sul decreto legge anticrisi. Un decreto, lo ricorderete, approvato a fine novembre e che entro la fine di questo mese deve essere convertito in legge. Ha tanti provvedimenti al suo interno che riguardano anche molte famiglie. In questi giorni noi torneremo ad esplorare i temi più importanti e di più largo impatto contenuti in questo provvedimento e oggi, per esempio, ritorniamo sul bonus sociale, la social card, perché le norme che disciplinano l'erogazione di questi sostegni economici per le famiglie in difficoltà, per i bassi redditi, sono stati leggermente rivisitate, o meglio ci sono state un paio di proroghe di cui tener conto, soprattutto appunto per chi ha fatto richiesta della social card e che non era riuscito appunto ad attivarla in tempo utile per avere inserito appunto in questa carta prepagata per esempio la prima famosa ricarica di 120 euro. Forse altre novità arriveranno, visto che ci sono ancora 15 giorni di tempo prima della chiusura del provvedimento e quindi della sua definitiva entrata in vigore. Però noi oggi cerchiamo di soffermarci sui temi di cui abbiamo a disposizione, su ciò che conosciamo, e cerchiamo di nuovo di capire con chiarezza quali sono i requisiti necessari, economici, familiari, reddituali, per accedere appunto a questi benefici. Ci faremo aiutare ad orientarci nella materia e nell'omità da chi è impegnato ogni giorno nell'assistenza a molte persone che hanno bisogno di informazioni di questo tipo, perché per esempio non hanno ben chiara la modalità con cui si compila la modulistica, non sanno che documentazione va allegata. E allora buongiorno e grazie di essere di nuovo con noi, perché era già stato nostro ospite, al dottor Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, il centro di assistenza fiscale appunto delle ACLI per lavoratori dipendenti e pensionati. Dottor Conti, benvenuto. Buongiorno. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta, per le vostre domande in diretta. Il numero invece per scriverci i vostri messaggi è il 349 238 6666. Brutta giornata per la borsa, lo abbiamo anticipato come sempre nel giornale radio. Il quadro è piuttosto precario oggi per molti motivi. Abbiamo un calo di 2,5 punti a Parigi. La giornata era partita male, ma non in questa misura. C'era un calo all'inizio della seduta di circa un punto, poi si è deteriorato il quadro progressivamente. Francoforte sta perdendo il 2,34%, Londra il 2,10%, Milano è la peggior piazza d'Europa, sta perdendo il 3%. E un po', insomma, in queste prime due giornate della settimana le borse stanno vanificando tutto quello che invece avevano fatto all'inizio dell'anno, quando erano partite con uno sprint notevole, proprio come a voler cancellare tutta la crisi dello scorso anno. Invece queste giornate ci dimostrano ancora che i temi che così gettano un po' nell'incertezza degli investitori, gli investitori non sono stati completamente cancellati, tutt'altro. Infatti oggi abbiamo un calo abbastanza netto su tutte le piazze finanziarie, un calo che tra l'altro era iniziato a Wall Street ieri sera, che si è ripetuto stamattina in Asia. Il Nikkei a Tokyo ha perso quasi il 5%, colpa anche dello yen che sta correndo, colpa anche di cattive notizie che riguardano alcune grandi società come Sony. Per quello che riguarda invece l'Europa, oggi è penalizzato il comparto bancario, ma soprattutto quello petrolifero, perché il petrolio, anche se questa è una buona notizia teoricamente sui titoli del settore, ovviamente si abbatte però come notizia negativa. Il petrolio sta scendendo e abbiamo avuto addirittura uno scivolone a New York sotto i $37 al barile, mentre il Brent a Londra si trova ancora al di sopra della soglia dei $40. Andiamo a dare un'occhiata a Piazza Affari. I migliori titoli in questo momento, non ce n'è nessuno positivo. C'è l'Espresso che è fermo sulla parità, e poi andiamo a dare un'occhiata ai titoli che perdono meno. Sono Snam Rete Gas meno 0,13%, Parmalat meno 0,5%, STM meno 0,5%, Mediaset meno 0,8%, e poi abbiamo i titoli che perdono un punto abbondante, quasi un punto e mezzo: Fastweb, la ex Autostrade, Seat, pagine gialle, fino ad arrivare al calo, a dimostrazione di quanto oggi pesi l'andamento del petrolio, il calo di 6,2 punti di Saipem. Tenaris meno 6%, si è fermata oggi anche tutta la speculazione che aveva fatto correre i titoli del settore bancario. Il Banco Popolare oggi perde il 5%, Unicredito meno 3,93%, Pirelli meno 4,29%, Lottomatica meno 4%, Intesa San Paolo meno 3,86%, Monte dei Paschi meno 3,76%. Insomma, brutta giornata, speriamo che migliori Così, proseguendo, un'occhiata al rapporto valutario, 1,3312 il rapporto di cambio fra euro e dollaro, l'Euribor scadenza a tre mesi è oggi piazzato al 2,61% e probabilmente continuerà a scendere anche perché il 15 gennaio la Banca Centrale Europea si riunisce per tagliare ancora i tassi di interesse nell'Eurozona. Ultima comunicazione di servizio che voglio darvi da questo microfono: domani dalle 9.30 alle 13.30 gli esperti del Sole 24 Ore della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro organizzano la terza edizione del Forum Lavoro e quindi potranno a tutte le persone interessate alle tematiche del lavoro potranno appunto fornire risposte a questi quesiti per risolvere appunto tutti i dubbi su questo argomento. Gli utenti possono intanto trovare le informazioni di questo evento sul sito del Sole 24 Ore e poi possono registrarsi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/forumlavoro e attraverso appunto questa registrazione si possono inviare i quesiti che domani saranno sottoposti in tempo reale a relatori ed esperti presenti nella sede centrale dell'evento che sarà Roma. Lasciamo la borsa, lasciamo il forum lavoro, andiamo invece al tema di questa mattina, ritorniamo sul bonus sociale, la social card. C'è ancora tempo per ottenere i benefici previsti dal governo con il decreto anticrisi. Bonus sociale e carta acquisti vedono infatti prorogati i termini di presentazione delle domande al 28 febbraio. In pratica, i destinatari della social card, che non avessero ancora presentato i moduli alle poste, potranno rimediare nelle prossime settimane, senza perdere la prima ricarica, quella di 120 euro, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. E riceveranno anche gli 80 euro per i primi due mesi del nuovo anno. Per quanto riguarda il bonus sociale, invece, la proroga favorirà chi intenda fare richiesta in riferimento al reddito ottenuto nel 2007, i cui termini di presentazione, prorogati ora al 28 febbraio, scadevano il 31 gennaio. Resta invece al 31 marzo 2009 la data entro la quale presentare la domanda se si intende riferirsi al reddito del 2008. Nessuna correzione è stata apportata nella scelta dei requisiti per l'ottenimento del beneficio. La social card è destinata ai cittadini tra i 65 e i 70 anni, con redditi annuali fino a 6.000 euro e sarà valida per tutto il 2009. A beneficiare del bonus sociale saranno invece pensionati e nuclei familiari entro un certo reddito, in base ad alcune condizioni specifiche, come la composizione del nucleo familiare e la presenza di disabili o anziani a carico. Per capire poi se si abbia o meno diritto a ottenere i due benefici, bisogna guardare, nel caso del bonus, al reddito complessivo, mentre si deve far riferimento all'ISEE per quanto riguarda la social card. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, perché lo potete utilizzare per prenotare i vostri interventi e rivolgerci le vostre domande sui temi di questa mattina, così come potete inviarci i vostri quesiti al 349 238 6666. Volevo prima di tutto rispondere a Fabrizio, che ci chiede se c'è stata qualche modifica relativamente agli sgravi fiscali per chi esegue lavori di riqualificazione energetica degli edifici, il famoso bonus energia del 55%. Ci sono delle novità, Fabrizio, anche su questo, però noi a Salvadanaio ne parliamo domani, per cui la tengo incollata all'ascolto di Radio 24 fino a domani e chiariremo tutti i dubbi anche sulle novità relative a questa parte del provvedimento anticrisi. Paolo Conti, ancora buongiorno. Io inizio questa mattina la trasmissione ascoltando subito la domanda di un ascoltatore, Giuseppe, dalla provincia di Cremona, perché la sua domanda è simile anche a quelle che ci stanno arrivando, ad alcune che ci stanno già arrivando al 349 238 6666, per cui diamo subito vivacità al nostro programma cercando di capire che cosa non si è capito rispetto ai requisiti necessari e per ottenere il bonus sociale e per ottenere la social card. Giuseppe, benvenuto. Sì, buongiorno. La mia domanda è questa. In pratica, i miei suoceri hanno perso il lavoro circa 5 anni fa e da allora non sono più riusciti a entrare nel mondo del lavoro. Alla domanda che hanno fatto al CAF per riuscire a ottenere uno sgravio fiscale o comunque una social card, gli è stato risposto che se non avessero avuto almeno un reddito minimo non avrebbero avuto nessun tipo di contribuzione. Quindi insomma voleva sapere se questo corrisponde a verità o meno, infatti, Giuseppe. Volevo capire se questo corrisponde a verità. Effettivamente sembra un po' incredibile, però credo che le cose stiano così, e così come questo forse dovremmo dirlo anche all'ascoltatore che non si firma e ci chiede: ho 63 anni ma sono a reddito zero, ho diritto al bonus. Paolo Conti, buongiorno di nuovo, buongiorno, chiariamo subito appunto questo dubbio. Sì, per quanto riguarda il bonus famiglie è stato specificato che a tutti gli effetti la insussistenza di qualsiasi tipo di reddito non dà diritto a nessun tipo di bonus, anche perché il bonus poi viene erogato direttamente dal datore di lavoro, eventualmente dall'Agenzia delle Entrate, ma è proprio riferito a una componente di reddito di lavoro dipendente o di pensione. L'assenza di una di questi due componenti determina l'impossibilità di avere bonus. C'è però da dire che bisogna verificare per questi soggetti eventualmente se possano essere qualificati come soggetti a carico di un'altra persona. Cioè l'ascoltatore che dice che ha i genitori che sono usciti dal mondo del lavoro, sì, e che non hanno più reddito, sì. Da qualche anno, probabilmente se i genitori di questa persona, di questo ascoltatore, sono residenti con lui, a quel punto fanno parte del nucleo familiare dell'ascoltatore, che a quel punto potrebbe avere, oltre alle detrazioni per altri familiari a carico, eventualmente verificare anche se questa nuova composizione del nucleo può aver diritto eventualmente a anche il bonus per la famiglia. Quindi mettiamola così, non tutto è perduto per il nostro ascoltatore di Cremona, sì. Faccia questa ulteriore verifica, questo ulteriore accertamento. Dove sono residenti i genitori. Benissimo. Esatto. Senta, sono indecisa se partire con il bonus famiglia o la social card. Direi però di partire con la social card, perché in realtà la proroga relativa al 28 febbraio per poterne fare richiesta, soprattutto per coloro che così si erano visti sfumare la possibilità di avere la prima ricarica, quella retroattiva, quella relativa ai mesi di settembre, di ottobre, novembre, dicembre, quella da 120 euro, in realtà è una prospettiva che si è riaperta proprio perché anche grazie alle vostre denunce, ma non solo, il Ministero dell'Economia ha detto sì, forse visto che il funzionamento non è stato ottimale, non appena coloro che ne hanno il diritto hanno ricevuto appunto a casa loro la carta acquisti, e allora forse sarebbe il caso di prorogare un po' anche i termini per la richiesta. Così è andata, Conti, no? Sì, anche perché a tutti gli effetti, vede, il provvedimento in realtà è di metà settembre, poi però l'operatività è iniziata col primo di dicembre. Sì, anche perché va ricordato che la social card non era contenuta nel pacchetto anticrisi, ma nella manovra finanziaria triennale che è stata varata in estate, infatti. Esatto. E di conseguenza, a tutti gli effetti, quando è stato varato la norma che prevedeva appunto l'istituzione della social card, i 90 giorni di tempo necessari per fare le domande c'erano, perché da metà settembre, ipotizzando una partenza in ottobre, si poteva tranquillamente chiudere per il 31-12. Si è partiti però con due mesi di ritardo, e questo non a causa dei pensionati o delle persone che potevano avere diritto, e di conseguenza abbiamo detto, cioè materialmente non c'è stato il tempo tecnico e fisico per poter emettere più di 1 milione di carte, che sono quelle che si presuppone possano essere il numero complessivo. Adesso, oggi come oggi, siamo attualmente attorno ai 600.000 carte emesse, di cui circa 400.000 cariche effettivamente funzionanti, per cui i 60 giorni sono assolutamente necessari di proroga per questo motivo. Ecco, quali sono state le disfunzioni più diffuse che sono state riscontrate? Io mi ricordo che avevamo organizzato anche proprio sulla fine dell'anno, non con lei, ne abbiamo fatto anche un'altra successiva con il nostro Tonino Morina, il nostro esperto di questioni fiscali, avevamo riscontrato per esempio che molti ascoltatori avevano rilevato che non funzionasse ai bancomat dei negozi convenzionati appunto per poterla utilizzare, chi aspettava il PIN per poterla attivare, ma non abbiamo capito poi se effettivamente fosse necessario digitare un PIN o meno per attivare una carta prepagata, e così infatti non è. No, infatti c'è stata molta confusione, guardi, sotto questo aspetto. Allora, il primo problema è derivato da questo: per la carta, la social card, per i pensionati deve rispettare due requisiti, uno quello di reddito, uno quello di essere sotto un valore ISE sotto i 6.000 euro, l'altro quello di avere un reddito sotto a sua volta i 6.000 euro per le persone ultra 65 anni e gli 8.000 per gli ultra settantenni. Il problema è nato dal fatto che i 6.000 euro di reddito non sono 6.000 euro di reddito imponibile, ma sono 6.000 euro di reddito compresi anche i redditi cosiddetti esenti. Per cui, per esempio, le pensioni di invalidità, le pensioni sociali, i trattamenti minimi, le pensioni di guerra, i trattamenti dell'INAIL, che sono tutte forme di reddito totalmente esente, che dunque non compaiono né in dichiarazione dei redditi, non compaiono nella dichiarazione ISE, non compaiono da nessuna parte. Devono però essere ricomprese nel modello nel reddito della social card. E chi faceva questo, chi fa questo tipo di controllo? Lo fa l'INPS. Per cui cosa succede fondamentalmente? Il meccanismo come ruota? Allora, il pensionato si reca presso un CAF per verificare prima di tutto di avere un reddito ISEE sotto i 6.000 euro. A questo punto il CAF certifica eventualmente il reddito sotto i 6.000 euro, verifica il CUD della persona, che è la prima cosa che può vedere, e anche in questo caso verifica che sia sotto i 6.000 euro, non ha però gli strumenti per verificare se questa persona ha altri redditi previdenziali esenti, perché da nessuna parte compare se una persona ha una pensione di guerra, per esempio, o una rendita INAIL e così via. Questi dati sono contenuti all'interno del casellario previdenziale, che è gestito direttamente dall'INPS. Per cui cosa succede? La persona fa la domanda, è sotto un ISE sotto i 6.000 euro, ha un reddito... E dunque potrebbe teoricamente aver diritto. Averne diritto, ha un reddito imponibile sotto i 6.000, presenta la domanda alle poste, erogano la carta che però ancora non è attiva. A questo punto l'INPS riceve il dato di questa richiesta, verifica nel casellario previdenziale e se trova però pensioni e forme esenti che fanno però superare i 6.000 euro, non attiva la carta. Il problema qual è stato? È che l'INPS avrebbe dovuto, cioè deve, informare il contribuente della cosa e c'è un grande ritardo invece in questo tipo nella comunicazione. In questo tipo di comunicazione. Per cui infatti, ci sono molte carte erogate, ma che non sono state attivate non per una carenza, nella stragrande maggioranza dei casi, non per una carenza di attivazioni, di problemi tecnici sull'attivazione, ma perché non verranno mai attivate, perché non ci sono i requisiti. Le faccio sentire il caso di Giovanni dalla provincia di Savona, perché credo proprio che ricada in una situazione di questo tipo. Giovanni, ascoltato quello che abbiamo detto fino ad ora, buongiorno. Infatti c'è la spiegazione di quello che volevo chiedere io. Infatti. L'unica cosa è che se l'avessi saputo prima mi sarei evitato di fare tutta questa procedura. Beh, però Giovanni, sì, ha ragione, però magari poteva anche ricaderci, perché io infatti ho mia mamma che ha 95 anni, che ha un ISEE sotto i 6.000 euro, ho fatto la domanda il 4 di dicembre, ho già ritirato la social card, ho chiamato i vari numeri verdi perché poi vedevo che la carta non era caricata, era sempre a zero, tutto quanto, e mi dicevano sempre che era in verifica. Adesso l'ultima volta, giusto appunto ieri, l'operatrice dell'INPS mi dice, ma guardi che sua mamma ha una pensione di invalidità, di accompagnamento, pardon, e quindi non rientra nei parametri, non le sarà attivata la carta. Io ho contestato solo il fatto che questo tipo di informazione all'atto della domanda, nella modulistica che avevo scaricato tutto quanto, non era indicata da nessuna parte. E infatti, tra l'altro, Giovanni, prendiamo atto ovviamente della sua lamentela, della sua contestazione, tra l'altro aggiungiamo, proprio per il fatto che la misura della social card era prevista dalla manovra triennale di quest'estate, forse effettivamente ci si poteva sbrigare un po' prima, no? E ha ragione Conti, ritorna a lei Giovanni, quando dice sì, se io avessi saputo tutto prima non mi sarei dato tanto da fare per fare la domanda per poi scoprire che non ho diritto a questo beneficio. Purtroppo i primi chiarimenti in tal senso, i primi messaggi operativi sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'INPS sono datati 1-2 di dicembre, dove proprio si vanno a intercettare anche queste tipologie di reddito. Tra l'altro Conti, mi scusi, adesso a parte il fatto che magari un ascoltatore può venire in un centro, in un CAF dell'ACLI o andare da un'altra parte per capire, esiste, perché ecco qui non mi sono documentata e ho fatto male, un numero verde dell'INPS a cui rivolgersi per capire a che punto è la propria pratica, tanto per non continuare ancora a sperare? Esiste, allora magari lo cerchiamo e vediamo se riusciamo anche a darlo. Esiste un numero verde dell'INPS a cui si può fare riferimento proprio per verificare se la carta è stata attivata o meno. È estremamente intasato, soprattutto in questi periodi, proprio perché sono state tantissime quelle non attivate, a causa proprio di questo motivo. Cioè, tra l'altro, a generare ancora più confusione, c'è un altro fatto, cioè la social card in realtà è un provvedimento non solo per i pensionati, sicuramente per i pensionati, ma non solo, cioè interessava anche le famiglie con bambini sotto i 3 anni. Esatto. Per le famiglie con i bambini sotto i 3 anni l'unico requisito che si guarda è il reddito ISE, e non anche il reddito invece della famiglia, imponibile o complessivo, che dir si voglia. Per cui una famiglia con un bambino sotto i 6 anni non ha non ha un 6.000 euro per 6 anni, non ha un reddito complessivo di cui tenere in considerazione, se non il valore invece del valore ISEE sotto i 6.000 euro. Allora questo forse ha causato ulteriore confusione, perché per i pensionati si operava in un modo, per le famiglie invece in un altro. Tra l'altro, a nostro parere, mancano molte famiglie all'appello. E allora magari stamattina enfatizziamo questo messaggio, Conti, lo facciamo nella seconda parte di Salva Danaio. Peraltro, nell'ambito invece degli emendamenti apportati al decreto anticrisi in discussione in questi giorni in aula parlamentare, appunto a Montecitorio, c'è anche questa novità secondo la quale ci sarà sempre per le famiglie con bimbi di età inferiore a 3 anni che hanno già diritto alla social card anche un contributo per comprare latte artificiale e pannolini. Anche questa ci sembra una buona notizia. Salva Danaio torna sul provvedimento anticrisi che è in corso di approvazione da parte del Parlamento per esplorare le novità che sono arrivate negli ultimi giorni e che riguardano in particolar modo i criteri dell'erogazione del bonus sociale e della social card. Abbiamo esplorato nella prima parte di Salva Danaio le questioni problematiche che sono state relative all'erogazione della social card. Per la verità ne sono state erogate tante, attivate un po' di meno, per le problematiche appunto che abbiamo affrontato con Paolo Conti, direttore generale del CAF Acri, il centro di assistenza fiscale appunto delle Acri. Adesso lascerei per un attimo ancora da parte la social card per andare invece al bonus sociale. Tra l'altro avevamo promesso di dare anche comunicazione del numero verde IMSS, molto ricercato in questi giorni, proprio per chiedere lo stato delle pratiche di chi ha inoltrato la domanda per l'erogazione della social card e magari l'ha ottenuta ma non è carica, non riesce ad utilizzarla, e come avete sentito anche in una testimonianza di un ascoltatore che abbiamo ascoltato poco fa, si è appreso che molte persone che magari l'hanno presa alla posta non hanno visto la sua ricarica perché non sussistevano i requisiti reddituali appunto ed economici per poterne avere diritto. Il numero verde dell'INPS è l'80 31 64, per chi ha dimestichezza con internet può anche fare una ricerca di informazioni proprio sul sito dell'INPS. Adesso invece mi sposterei sul fronte bonus sociale, cominciando anche in questo caso con una domanda di un ascoltatore che è Walter da Imperia, che saluto, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere la seguente cosa, ho entrambi i genitori pensionati che usufruiscono della legge 104 e sono in comunione dei beni con un reddito complessivo inferiore a 35.000 euro, vivono uno con me, l'altro con mio fratello per ragioni di salute, hanno diritto entrambi al bonus sociale? Sì, che sarebbe teoricamente per famiglie in cui vi è almeno un portatore di handicap un bonus di 1.000 euro. Dottor Conti, ci aiuta ad orientarci in questo caso, quello di Walter? Sì, no, bisogna stare molto attenti. In questo caso il portatore di handicap deve essere un figlio. Ah, ecco. Per cui i genitori in questo caso... Mi siano figli a carico, sì, esatto, infatti. Devono essere figli a carico, per cui praticamente se i genitori vivono con la famiglia dei loro figli, va bene, e in questo caso bisogna verificare il nucleo familiare fiscale dei genitori alla fonte, perché anche se vivono con i figli non sono a carico dei figli, per cui non entrano nella domanda di bonus dell'ascoltatore, per cui l'ascoltatore deve fare una domanda di bonus per sé, se pensa di averne diritto, considerando la moglie e eventualmente i suoi familiari a carico. I suoi genitori, indipendentemente da dove vivono, fanno nucleo familiare insieme e di conseguenza, se superano però il limite di 17.000 euro, che è quello per i componenti con famiglie di due persone, non hanno diritto al bonus. Il fatto di essere invalidi con la legge 104 non determina l'aumento a 35.000 euro, perché questo è determinato solo per le famiglie con figli che hanno invalidità. Chiarissimo. Dottor Conti, allora visto che ci siamo, possiamo rifare un po' il punto della situazione sui criteri secondo i quali viene attribuito questo beneficio, e il requisito prioritario intanto è il numero dei componenti del nucleo familiare, poi naturalmente si va a guardare al reddito. Possiamo fare, mi aiuta a rifare un punto della situazione sui vari scaglioni di reddito e il relativo bonus che è in questo caso ottenibile a seconda dei componenti del nucleo familiare? Certo, allora guardi, il primo scaglione è dato da famiglie fatte da un unico componente, in questo caso però deve essere per forza di cose un pensionato, perché famiglie con un unico componente dipendente non hanno diritto a bonus, indipendentemente dal reddito. Per cui una persona sola pensionata, limite di reddito complessivo 15.000 euro, bonus 200 euro. Poi invece abbiamo famiglie fatte da due componenti, che siano pensionati o lavoratori dipendenti, in questo caso due componenti, reddito 17.000 euro complessivo, bonus 300 euro. Bonus diventa di 4,50 se il nucleo familiare è di tre componenti? Tre componenti, sempre con 17.000 euro di reddito, diventa di 500 euro se il nucleo è di quattro componenti ma il reddito è fino a 20.000. Con un reddito da 20.000 abbiamo anche i nuclei da 5 componenti e il bonus diventa di 600 euro, con un nucleo oltre i 5 componenti abbiamo un reddito di 22.000 euro e un valore di bonus di 1.000 euro. I 1.000 euro sono anche il valore del bonus per quelle famiglie dove ci siano almeno uno o più figli a carico portatori di handicap in funzione della legge 104 del 92, in questo caso il limite di reddito è 35.000 euro. Ecco, si può presentare la domanda se si è lavoratori dipendenti al proprio sostituto d'imposta, quindi alla propria azienda, se si è pensionati invece direttamente all'INPS o all'ente che eroga la pensione, si può invece fare la domanda anche direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, però le scadenze sono diverse, dottor Conti. Sì, sono diverse e tra l'altro stanno cambiando perché in questi ultimi giorni. Allora, la prima scadenza era il 31 di gennaio per presentare la domanda nei confronti dei datori di lavoro per avere immediatamente, diciamo così, il bonus sulla busta paga di febbraio o pensione di marzo. In questo caso praticamente questa scadenza del 31 gennaio dovrebbe essere spostata al 28 febbraio. Non dovrebbero cambiare però le modalità di erogazione, per cui sicuramente lo stipendio di febbraio non sarà più possibile, né lo stipendio di marzo, nella pensione di marzo dovremmo avere il rimborso relativo. E per la presentazione all'Agenzia delle Entrate, oggi come oggi, le modalità di presentazione sono un po' diverse, sì. Sono un po' diverse e si parla sempre di 31 marzo 2009, però io su queste scadenze qui starei un attimo. Aspetta, faremo un'altra puntata allora a fine gennaio, sì, per dare quelle definitive. Ogni giorno praticamente abbiamo degli slittamenti, degli spostamenti ultimamente che rendono abbastanza difficile. Diciamo che però quello che si può dire senz'altro, dottor Conti, è chi intende far valere i redditi del 2007 può farla prima di tutti gli altri. Su questo siamo sicuri. Assolutamente sì. Allora, chi sentiamo adesso? Sentiamo chi è che aspetta da un po'. Marco da Firenze. Buongiorno, benvenuto. 800240024 ancora per i vostri interventi. Grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, Marco. Sono un dipendente di un'azienda privata da tanti anni. Nel 2007 ho preso un'aspettativa di un anno per motivi di salute familiari e contemporaneamente ho aperto una piccola attività non marginale che è andata malissimo, è chiusa a fine 2007, per cui il reddito negativo, non ho altri redditi, però tuttora sono ancora dipendente, insomma, ecco, sono tornato a fare il dipendente. E ho il diritto, secondo il dottore, di richiedere il bonus? Beh, intanto bisogna vedere qual è l'ammontare del suo reddito complessivo in un anno, come è composto il suo nucleo familiare. Marco, lei è sposato, per esempio? Sono sposato, ho un figlio e rientrerei secondo i miei calcoli, perché appunto il reddito azienda era completamente negativo, mia moglie non lavora e ho un figlio. Ecco. Quindi lei vorrebbe eventualmente far valere i redditi del 2007. Conti, facciamo fare la domanda a Marco oppure rischia di perdere tempo? No. Allora, per il 2007 il fatto di aver avuto una partita IVA durante il 2007 lo esclude già? Esclude totalmente dalla possibilità di fare la domanda di bonus. Bisogna verificare il reddito 2008, perché potrebbe eventualmente fare la domanda utilizzando il reddito del 2008, perché se non sbaglio ha detto che ha chiuso la partita IVA entro il 31/12 del 2007, per cui se nel 2008 il suo reddito di lavoro dipendente è al di sotto dei valori per il quale può aver diritto al bonus, allora potrebbe fare la domanda entro il 31 di marzo avvalendosi del reddito 2008. per cui, però per il 2007 assolutamente. Non può, è escluso. Fabrizio da Palermo ci ha scritto l'indirizzo di Salva Danaio. Io tra l'altro molto poco spesso leggo in diretta le mail che ci arrivano al nostro indirizzo, all'indirizzo della nostra trasmissione, quelle generalmente cerchiamo di evaderle con grande difficoltà perché siete in tantissimi in via privata, ma questa di Fabrizio la leggiamo. Mia suocera ci dice età 60 anni, ha un solo reddito derivante da assegni dal coniuge divorziato, 5.500 euro annui. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la sua richiesta per il bonus perché non percepisce alcun reddito da pensione. È corretto quello che gli ha risposto dottor Conti, l'Agenzia delle Entrate, la nostra ascoltatrice? Ma, a mio parere ne ha diritto, perché i redditi limitatamente appunto agli assegni periodici erogati dal coniuge entrano tra gli assimilati al lavoro dipendente pensione, per cui a tutti gli effetti. Tra l'altro non penso che l'agenzia gli abbia respinto, perché in realtà è una domanda che viene fatta in via telematica, per cui a tutti gli effetti bisogna compilare la modulistica, utilizzare un intermediario o direttamente il sito dell'agenzia, o altrimenti un intermediario, appunto un CAF, che trasmette poi la domanda direttamente all'agenzia, che fa la verifica poi attraverso la dichiarazione dei redditi. Però dalle istruzioni appunto delle richieste di bonus, i soggetti beneficiari sono anche quelli che hanno redditi assimilati al lavoro dipendente, limitatamente anche agli assegni periodici corrisposti. Facciamo andare Fabrizio magari ad un CAF, ad una persona che gli dia invece che fare in maniera autonoma. Sì, è molto meglio. In questo caso io consiglio sempre alle persone appunto di rivolgersi alla rete dei CAF, che tra l'altro è una rete molto molto ampia, perché esatto, non è solo la vostra, esatto, no, ci sono i sindacati, i patronati, esatto. No, ma questo per cui è facile che trovi un esperto molto vicino a casa, e in quel modo lì sicuramente evita di perdere tempo, di fare giri che poi alla fine infatti di essere addirittura utili. Forse addirittura potrebbero rischiare in questo caso di fargli perdere questo beneficio, quindi Fabrizio magari si dia un'occhiata intorno e cerchi qualcuno che possa darle una mano. Ultima parte di Salva Danaio, che oggi è tornato sul provvedimento anticrisi e le misure destinate alle famiglie meno abbienti, che abbiano tutti quei requisiti necessari per poter accedere al bonus sociale o alla social card. E ci sono moltissime le domande che continuano ad arrivarci all'800240024, ma anche alle 349-238-6666. Davide ci chiede di ripetere di nuovo la questione del bonus figli fino a 3 anni. In realtà qua parliamo della social card. Davide, adesso ci ritorniamo senz'altro. Vorrei però sentire Elisa dalla provincia di Verona prima, perché anche questa è una questione piuttosto importante. Elisa, quella che ci vuole porre la nostra ascoltatrice. Sì. Buongiorno, volevo sapere se con certezza, visto che regna un po' di confusione, se hanno diritto alla social card le persone extracomunitarie residenti da anni in Italia, e così anche per il bonus. Grazie Elisa. Dottor Conti delle ACLI stamattina ci sta aiutando ad orientarci in questa questione che è stracomplicata, perché poi scopriamo ovviamente che ogni persona ha una situazione diversa, ogni nucleo familiare ha un quadro evidentemente diverso. Per gli extracomunitari avevamo già spiegato anche l'altra volta che rileva, uso questo termine giuridico bruttissimo, la questione si sia cittadino o no, esatto, la cittadinanza. Sì, la social card è riservata ai cittadini italiani e di conseguenza gli extracomunitari non possono aver diritto a questo tipo di aiuto. Invece il bonus è riservato ai lavoratori dipendenti e pensionati indipendentemente dalla loro cittadinanza, per cui anche il soggetto extracomunitario dipendente di una ditta italiana può farne tranquillamente richiesta. Naturalmente avendo i requisiti relativi alla componente del nucleo familiare e reddituali, naturalmente. Allora, ritorniamo sulla social card. Francesca da Milano, la sua funziona perfettamente, per fortuna, perché sì, qua se no stiamo solamente parlando di problemi, ma raccontiamo anche di qualcuno che la sta utilizzando. Infatti, io devo dire di essere stata fortunata, perché l'ho presentata il 5 di dicembre e mi hanno, dato che ho consegnato tutta la documentazione, e mi hanno consegnato la mia card, e io ho già fatto anche tutte la spesa. Le sue spese. Cioè, Francesca, era carica con i 120 euro, sì, la sua? Sì, perché io alla posta ho pagato le bollette. Esattamente. E poi anche a un supermarket è passata, perciò era carica, ecco. Benissimo. Perciò dico, dico che sono stata fortunata, a meno che poi non ci siano dei ripensamenti. No, ma non gliela toglierà nessuno, Francesca. Anzi, se dovesse capitare, ci chiami immediatamente, perché ci mancherebbe altro. Allora faccio una cosa, la spenda tutta e così. No. Appunto, dovrò fare, dovrò comprare tanta roba. Grazie. Francesca, noi le vogliamo molto bene. Voce, no, grazie. Grazie a lei perché ce l'ha raccontato. Anche perché fa molta tenerezza. Francesca dice: io sono stata fortunata perché la mia ha funzionata. Se si può parlare di fortuna ad avere una pensione così, così piccolina, tale da aver diritto alla social card, Francesca, comunque complimenti, e soprattutto insomma se la spenda tutta e se la goda, anche se la cifra ovviamente è quella che è, però insomma 120 euro possono far già molto in un bilancio magro come quello dei pensionati che hanno diritto a questa social card. Dottor Conti, delle ACLI, vogliamo di nuovo ribadire magari la questione dei nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 3 anni che hanno diritto alla social card, perché appunto, come abbiamo anche detto prima, parliamo sempre dei pensionati, ma in realtà c'è tutto un ambito anche sociale che avrebbe diritto a questo beneficio, che magari non lo sa e non lo chiede. Esatto, esatto. Purtroppo è quello che abbiamo visto in questo ultimo mese. Si è parlato molto di social card per i pensionati, si è parlato molto molto meno di social card per i genitori con bambini sotto i 3 anni. E il limite di 6.000 euro ISEE forse ha fatto ulteriore confusione, per il semplice fatto che molta gente considera i 6.000 euro ISEE come 6.000 euro di reddito imponibile, e così non è. Cioè una famiglia con due bambini, due persone che lavorano e due figli, sta sotto un valore ISEE, anche se non paga affitto, ma con reddito imponibile attorno ai 16.000 euro. Per cui la platea delle persone che ha bambini sotto i 3 anni, che potrebbe aver diritto a questo tipo di aiuto, è sicuramente più ampia rispetto a quella che oggi ha fatto domanda. Ci si è concentrati molto sui pensionati, giustamente, però si è tralasciato forse il fatto che anche le famiglie con bambini sotto i 3 anni potevano averne diritto, e effettivamente dal numero di domande che sono state presentate, quelle dei pensionati hanno un rapporto oggi di 1-10. Per cui speriamo in questi due mesi che venga fatta opportuna conoscenza, e soprattutto le persone che lavorano si prendano quel minuto di tempo per passare magari a un CAF o a una sede dell'INPS per verificare la propria condizione, perché siamo convinti che ci siano tantissime social card non erogate, ma proprio per le famiglie. Tra l'altro bisognerebbe vedere, anche questo forse lo conosceremo solo nei prossimi giorni, come funzionerà anche l'erogazione del contributo, come dicevamo prima, per comprare latte artificiale e pannolini, che è destinato, lo ribadisco ancora, alle famiglie con bimbi di età inferiore ai 3 anni che hanno diritto alla social card. Sentiamo ancora qualche altra domanda di qualche ascoltatore. C'è un ascoltatore che ci racconta che ha 35 anni, un bimbo di 2 anni, un ISEE di 4.000 euro. Mi pare di capire che teoricamente questo ascoltatore, se la composizione del suo nucleo familiare è questa, rientri nella categoria di quelle famiglie che hanno diritto alla social card, perché siamo anche lì a limiti di 6.000 euro, no? Me lo ribadisce, dottor Conti? Detto domanda, assolutamente. Certo, quindi che la faccia, anche se non si firma, spero che si riconosca in questo messaggio. Celestino da Arezzo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io ho una domanda un po' complicata da fare. Io sono fidanzato con una ragazza madre che vive con suo fratello e sua mamma. La mamma ha una pensione di reversibilità di 400 e qualcosa euro. La mia domanda era: lei ha diritto a qualche agevolazione in particolare, o social card oppure il bonus sociale? Quindi una ragazza madre vive all'interno di questo nucleo familiare, il figlio è a suo carico? Esatto, sì. È sempre a carico della mia ragazza, che tra parentesi non lavora, è disoccupata. Allora andiamo dal dottor Conti. Dottor Conti, adesso tra bonus e social card, secondo lei come può questa ragazza comunque cercare di... Bisogna verificare una serie di cose, perché qui a tutti gli effetti si dice che il figlio è a carico della mamma, però la mamma non lavora, che vuol dire che la mamma a sua volta sarà a carico di qualcuno, probabilmente è a carico della nonna, del genitore con cui vive, del genitore con cui vive. Per cui bisogna andare a ritroso un po' per capire chi è che eventualmente può fare questa domanda. Può darsi, per cui anche in questo caso bisogna verificare l'insieme dei redditi delle persone che abitano in quel nucleo familiare. L'ascoltatore, che è solo fidanzato a quanto ho capito e non è neanche residente all'interno di quel nucleo, invece viene escluso da questa tipologia di reddito. Infatti lui si interessava alla fidanzata. Ecco, questo è un altro punto in cui le consiglierei vivamente, proprio perché è una cosa molto particolare, di verificare presso un CAF, perché appunto la figlia, la bambina a carico della mamma, ma dove la mamma non ha reddito, a sua volta diventa a carico di un altro soggetto che potrebbe essere il nonno, e di conseguenza dobbiamo risalire a chi ha il reddito e a quel punto potrebbe avere diritto a bonus, social card e così via. Ricostruire un po' l'albero genealogico dei redditi di questa famiglia. Perfetto. Tra l'altro, dottor Conti, no, perché dove vanno le persone che hanno bisogno di queste informazioni? Su internet c'è il sito dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, sì, ma lì magari le informazioni sono generiche. Esatto, ogni sindacato ha il patronato e c'è un patronato per ogni paese d'Italia, di questo ne sono sicura al 99%. Cioè, i CAF e i patronati, esatto, hanno oramai una polverizzazione sul territorio che è eccezionale, per cui anche i piccoli paesi da 2-3 mila abitanti hanno l'operatore del CAF patronato, che magari non tutti i giorni ma 2-3 volte alla settimana è presente nell'ufficio. E che per lavoro fa questo, l'erogazione di queste informazioni, compila modulistica. Esatto. Che è collegato con le banche dati, dei dichiarativi, per cui cioè, è sicuramente un aiuto professionale a costo zero e che può risolvere tantissimi problemi in poco tempo. Non vorrei sponsorizzare però solo i sindacati, anche le ACLI abbiano certo, uffici certo, e CAF ovunque, anche voi, no? Assolutamente, sono coperte tutte le province italiane e tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti, per cui guardi, è praticamente impossibile non avere uno sportello vicino a casa. Salvatore da Napoli. Sì, buongiorno. Buongiorno. Devo fare una domanda sulla social card. Sì, ci dica tutto. Il bonus erogato dei 40 euro, dei 120 euro, deve essere speso entro il mese oppure si può accumulare? Salvatore, non mi pare che ci sia una scadenza di questo tipo. No. Dottor Conti. Ah, sì, c'è? Purtroppo c'è. Ah, eccola, io mi sembra di saper tutto, poi invece scopro che non so un bel niente, dottor Conti. Allora, entro quanto va spesa? Entro il secondo bimestre successivo alla ricarica. Cioè, allora, il problema è questo. Qui il legislatore ha fatto un qualche cosa che serviva per incentivare i consumi. E di conseguenza ha dato un limite di tempo per entro cui questi soldi dovevano essere spesi, per cui facciamo l'esempio della ricarica che viene effettuata adesso, cioè a gennaio, 40 è la euro 80 euro è la ricarica di gennaio febbraio, esattamente il bimestre, sì, il bimestre gennaio febbraio dovrà essere speso entro la fine 2000, di aprile, esatto, perché praticamente entro il mese successivo alla seconda ricarica, che sarà invece marzo aprile, invece cui, 120 euro della prima ricarica per chi è riuscito, 120 euro della prima ricarica, anche in questo caso qui, siccome erano riferiti ad ottobre, novembre, dicembre, dovranno essere spesi entro aprile. Entro aprile, quindi ci sì, sono c'è ancora stato uno slittamento. Quindi certo, tutto sommato è, come dire, però, un po' di cumulo c'è, ecco. Sì, assolutamente, cioè non c'è da fare le corse, però entro il secondo bimestre successivo vanno spesi. Anche se poi alla luce di quella proroga di cui abbiamo parlato, per cui il trimestre ottobre, novembre, dicembre verrà per chi fa domanda adesso, caricato adesso, magari forse ci sarà anche una proroga per poterla spendere con un po' più di tempo. A sua volta, però a tutti gli effetti bisogna che chi ha la social card consideri sempre che le 80 euro che gli vengono erogate devono essere spese entro 4 mesi, diciamo così. Però insomma crediamo che non facciano fatica chi ha la card in mano a spendere 40 euro in un mese, e in ogni caso insomma magari approfittatene abbastanza rapidamente poi per non vedere magari anche perdere 5-6 euro della carta, perché comunque è un peccato, ci si compra un bel pacco di pasta, pane, ci si fa la spesa anche per una giornata, perché ovviamente ha dei nuclei familiari molto contenuti. Dottor Conti, grazie molte per essere stato con noi, gli abbiamo dato tante informazioni oggi, speriamo che siano state tutte utili, forse sarà necessario ritornare su questo argomento alla fine del mese o magari primi di febbraio, per cui conteremo ancora sulla sua collaborazione. Volentieri, a presto, grazie a Gaia Romani e a Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, oggi Peter Bescaperi tornato da poco al lavoro in assistenza tecnica, da Deborah Rosciani buona giornata, domani ricordatevi perché torniamo invece sul bonus energia, buona giornata.